194. Crescente. Che linguaggio strano si parla nella dotta Bologna. I tappeti da terra li chiamano i panni, i fiaschi, i fiaschetti di vino, zucche, zucchette, le animelle, i latti. Dicono zigare per piangere. E ad una donna malsana, brutta e uggiosa, che si direbbe una calia o una scamonea, danno il nome di sagoma. Nelle trattorie poi trovate la trifola, la costata alla fiorentina ed altre siffatte cose da spiritare i cani. Fu là, io credo, che si inventarono le batterie per significare le corse di gara a Barroccino o a Sediolo e dove si era trovato il vocabolo zona per indicare una corsa in tramvai. Quando sentii la prima volta nominare la crescente, credei si parlasse della luna. Si trattava invece della schiacciata o focaccia o pasta fritta comune che tutti conoscono e tutti sanno fare, con la sola differenza che i bolognesi, per renderla più tenera e digeribile, nell'intridere la farina con l'acqua ghiaccia e il sale, aggiungono un poco di lardo. Pare che la schiacciata gonfi meglio se la gettate in padella con l'unto a bollore fuori del fuoco. Sono peraltro i bolognesi gente attiva, industriosa, affabile e cordiale, e però tanto con gli uomini che con le donne si parla volentieri, perché piace la loro franca conversazione. Codesta, se io avessi a giudicare, è la vera educazione e civiltà di un popolo, non quella di certe città, i cui abitanti sono di carattere del tutto diverso. Il Boccaccio, in una delle sue novelle, parlando delle donne bolognesi, esclama: «Oh, singolar dolcezza del sangue bolognese! Quanto sei tu sempre stata da commendare in così fatti casi, casi d'amore! Mai di lacrime né di sospir fosti vaga, e continuamente a prieghe pieghevole e agli amorosi desideri arrendevol fosti. Se io avesse degne lodi da commendarti, mai sazia non se ne vedrebbe la voce mia».